Sentiamo invece Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Un ascoltatore. Dunque, io di lavoro faccio il giornalista. Posso raccontare la mia esperienza che ho condiviso personalmente con i miei colleghi. Dalla provincia di Pavia e dalle zone limitrofe abbiamo seguito tre grandi vicende che poi hanno avuto un grosso riscontro a livello nazionale, dal rapimento di Casella all'omicidio di Letizia Verdini con il padre di tutti i sassi del Cavalcavia, da Tortona, sì, fino all'omicidio al giallo di Garlasco. Ecco, io riflettendo con gli altri colleghi ti ringrazio della possibilità che ho di sfogarmi in questo senso, avendo raccolto anche le sensazioni di altri colleghi. Noi ci siamo resi conto che nel corso di questi anni il rapporto tra i mass media e i grandi fatti di cronaca è diventato sempre più, volendo fare un paragone un po' paradossale, quello che ai tempi era, ai tempi dei greci e dei latini, la tragedia greca, no? Dove i giornalisti svolgono un po' il ruolo del coro, di sottolineare con degli odi stupore le emozioni dei protagonisti. Non so se ci avete fatto caso, ma ultimamente i gialli vengono sintetizzati dai nomi dei protagonisti: c'è Meredith, c'è Chiara, c'è Alberto. Certo, è vero. Ci sono i nomi, vengono personificati, quasi che dando un nome a questi personaggi gli si svincola dalla tragedia che li hanno vissuti, li si rende proprio come personaggi di una tragedia greca, dove il rapporto col fatto, col delitto, alla fine è marginale. Ci sono questi personaggi che vivono queste vicende e a un certo punto ho la sensazione e la paura del giornalista che sfugga la trama.